140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Cinema Apollo, Milano. La storia di Mina che protegge suo figlio dal mondo, lo chiude in casa, non lo nutre. Alba Rohrwacher in Hungry Hearts di Saverio Costanzo. Mettere un'etichetta di pazza è molto facile e invece la cosa che abbiamo provato, poi forse non ci siamo riusciti, questo non lo so, a raccontare era un altro tipo di complessità. Cioè una donna sola che in un paese straniero, lei è europea, si trova a New York, sicuramente con delle fragilità, per troppo amore, per un amore assoluto che è l'amore materno, che è un amore che sicuramente nasce nel bene, si trova a sbagliare e a entrare dentro un'ossessione, si isola, si chiude al mondo, non accetta aiuto da nessuno, perché lei sa in quanto madre quello che è giusto e quello che ha sbagliato, e questo è un sentimento che io non sono madre, ma molte madri mi hanno confermato essere autentico, cioè una madre sente quello che è bene e quello che è male per il proprio figlio. Lei entra dentro l'errore, ma per questo io non posso accettare pazzia, alla fine si sta evolvendo, e se il destino non intervenisse da fuori, cioè se non ci fosse qualcun altro che agisce e che decide per lei come la storia va a finire, io da spettatore ti direi: no, aspetta, io voglio vedere per un'altra ora questo personaggio, perché sono sicura che questo personaggio, dopo questa avventura drammatica che le è capitata, sta diventando qualcos'altro, e quindi forse è in grado di trasformare questo amore assoluto usato male, invece forse lo trasformerà in qualcosa che porti bene e solo bene. Io, scrivendo questi personaggi, li ho guardati solo con grande tenerezza, non riuscivo a giudicarli, perché non si fanno i film giudicando intanto i propri personaggi, perché non serve a niente, nemmeno che mai a me. Io sono molto legato a ciò che per me poi diventa un film, no? Dunque scriverlo mi ha aiutato anche a guardare me stesso con più tenerezza, con meno giudizio. Questo è stato il lavoro, cioè lavorare in maniera istintiva, amando profondamente anche gli errori dei nostri personaggi nel caso specifico, ecco. E poi è venuta fuori questa storia, però appunto l'istinto è un po' la base da cui siamo partiti. Il cuore, che è quello, il sentimento non ragionato, ecco, non pensato. Chi controlla lo sviluppo del bambino? Mia moglie non ha fiducia nei dottori. Amore mio, lei è malata. Io sono tutto quello che ha, ok? È la mia famiglia. Uscire farebbe bene a te come a lui. Lo porterò fuori, dovunque questo ti faccia stare bene. Amore mio, suo figlio è in pericolo. Non assimila quello che mangia, mi hai sentito? Perché non ti fidi di me? Basta! Che succede? È ossessionata dalla purezza, dall'igiene. Perché non vuoi credermi? È malata. Amore mio. Che succede, amore mio? Basta, siamo tutto il suo mondo. È malata. Che succede? Perché? Stai cercando di uccidere nostro figlio! Tu sei una cosa grande per me. Una cosa a tu stesso non sai. Questo è un film italiano, ma per te è stata anche un'esperienza americana. Come avete girato? Perché alcune ispirazioni sembrano un po' quelle dell'indie americano, poi anche la presenza di Adam Driver, che è insomma uno dei golden boy del momento proprio di questo tipo di cinema. Come abbiamo girato? Siamo arrivati con i nostri piccoli mezzi fragili nel paese dove il cinema lo sanno veramente fare, e abbiamo in un tempo breve provato a raccontare questa storia in cui credevamo. E anche il fatto che Adam, leggendo la sceneggiatura, vedendo i film di Saverio,